io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra allora, un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Pomeriggio a tutti, Franco Piantanelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Questo è il momento in cui si fanno i conti nello sport, come sapete, primavera, tempo della fine dei campionati, della gran finale delle coppe, dei playoff, a proposito della notte si decidono quelli della NBA, insomma il tempo del vino rosso e delle fragole, questa è la parte più dolce, da noi tutto è deciso invece, conti se ne faranno pochi. Siamo fuori dalle coppe, Juventus prima, Napoli secondo, Milan terzo, secondo me finirà così. Restano in discussione le retrocessioni, ma questo discorso ha un sapore più acido. E allora la domanda che mi rimbalzi in testa da questa mattina e che poi, come sempre succede, vedo ovunque, è: quanto vale? Ma quanto valgono i cori razzisti e lo striscione antiplatini della Lazio? Cioè, chi scrive perché non hai citato di questi cori, eccetera. Beh, valgono 30.000 euro di multa. Quanto vale un tuffo in aria dichiarato? Niente. Piniglia assolto perché il giudice sportivo ha accentuato la caduta ma non ha simulato, la TV evidenzia un contatto lieve, accentuato, censurabile ma non sanzionabile. E poi vedo questo quanto vale ovunque, Corriere dello Sport, Inter-Roma vale tutto, semifinale di questa sera, beh vale tutto, non saprei. Quanto vale la classifica? C'è scritto oggi su Repubblica, poi vi dico tutto, da campione d'Italia alla retrocessione in B. Insomma, se la domanda è quanto vale, io non posso che chiamare Marco Bellinazzo dal piano di sopra, sole 24 ore. Ciao Marco. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Allora, da che quanto vale partiamo? Da Cavani del tuo Napoli che dice il suo procuratore vale 70 milioni? Da dove vuoi partire? O beh, da quanto vale sponsorizzare lo stadio del Manchester, il centro sportivo del Manchester United? Beh, partirei dalla seconda richiesta. Vai. Perché la prima mi fa un po' male, ma in ogni caso ha detto Manchester... che si diciamo prima fuori onda, sì. A proposito, 800 24 0024 per farci compagnia al telefono, naturalmente. Cavani di Napoli dice: però mi impegnerò fino all'ultimo giorno. Avrei preferito, come ti dicevo prima, avesse dichiarato, sarebbe stato più strambo, più naif. Ma da adesso in poi vado via, non faccio più niente. Sì, a volte la banalità delle dichiarazioni dei calciatori, anche quando poi li adori, lasciano sbigottiti, insomma. Sì. Beh, allora, come se noi dicessimo, non so, lasciamo il lavoro tra un mese o da oggi in poi non faccio niente, pagatemi ma non faccio niente. Beh, no, mi dicevi, c'è Manchester United, poi parliamo anche di quanto vale la sponsorizzazione dello stadio della Juventus, perché anche questa è una novità, però c'è il Manchester United che l'altra volta mi raccontavi è riuscito perfino a mettere a bilancio una sciarpa. Ebbene, a bilancio in questo caso va la sponsorizzazione del centro sportivo, del centro tecnico dove i Red Devils si allenano. Bene, sono riusciti a fare un contratto con AON, che è la loro attuale sponsor, ma poi non sarà più lo sponsor ufficiale nei prossimi anni, per 8 anni, e guadagneranno da questa intitolazione, da questa vendita dei naming rights, 180 milioni di euro. questo, come dire, ti fa capire come il calcio ormai vada a diverse velocità e quelli che vanno veloci vanno sempre più veloci e sarà sempre più complicato raggiungerli. Senti, ma dicevo prima, citavo il titolo del Corriere dello Sport, Inter-Roma vale tutto naturalmente dal punto di vista sportivo, in realtà la vittoria in Coppa Italia, leggo, vale 2-3 milioni, ma sommata alla partecipazione in Supercoppa Italiana e alla Europa League. Parliamo dell'Inter perché è argomento molto di attualità. Quanto vale il bilancio dell'Inter? Come vanno le cose all'Inter? Beh, c'è stato, come sappiamo, come tutti i tifosi nerazzurri, non solo loro sanno, questo ingresso dei russi nella Saras, nell'azienda petrolifera della famiglia Moratti, e si è accesa una speranza sul fatto che i circa 180 milioni che finiranno nelle tasche dei due fratelli Moratti potessero in qualche modo poi essere utilizzati dall'Inter per un piano di rilancio e di sviluppo. Io arrivano i russi. Sono molto cauto, insomma, su questo passaggio diretto dalle gare cinesi arrivano i russi. Soldi. I cinesi sono evaporati, sono scomparsi alle parti di via Paolo Sarpi. Per chi conosce Milano sa che è un luogo dove ci sono tanti cinesi e si perdono, e quindi questo affare annunciato in pompa magna la scorsa estate è svanito. C'è ora questa importante, diciamo, strategica alleanza e partecipazione societaria di circa il 20% dei russi nell'azienda di famiglia, ripeto, dell'azienda petrolifera, che questo si possa tradurre poi in una iniezione di liquidità, in soldi freschi per l'Inter, insomma, non ci metterei proprio la mano sul fuoco. Moratti in ogni caso non vuole disinvestire dall'Inter, spendere come ha fatto fin qui nella sua presidenza 1,5 miliardi è qualcosa che resterà, penso, più unico che raro, sì, poi nella storia del calcio italiano. Cosa potrà accadere per quanto riguarda, diciamo, questa alleanza e i suoi sviluppi calcistici? Dopo assolutamente il traffico, così lasciamo il dubbio ai tifosi, lasciamo il dubbio agli ascoltatori che devono intervenire. 800 24 00 24, quanto vale il domandone? Fate voi, siamo qui apposta. C'è chi scrive, Marco Strama dice: siamo tutti in discussione fino all'ultimo giardiniere. L'ultimo giardiniere risponde: mai sentito in discussione. Oppure Guido, insomma, Guido penso di aver già risposto: quanto vale il tuffo dichiarato in area di Piniglia, caro Guido? Nulla. E scrivi: questo calcio desta vergogna. Vergogna un parolone, però un po' di, così, di perplessità certamente, almeno su questo affair. Tutti convocati. Allora, quanto vale? Quanto vale? Lo vedo ovunque, anche sul sito della Gazzetta. Inter Roma vale tanto. Allora, Marco Belinazzo, del Sole 24 ore, qui con me. 800 24 00 24, gli ascoltatori che intervengono valgono tantissimo, come sempre. Dicevamo di Inter, questa presenza dei russi, questa speranza russa che si è accesa nel cuore dei tifosi interisti. Sì. Ecco, io credo che, per essere molto concreti, non credo che i russi entreranno nell'Inter, a meno che Moratti non voglia cedere appunto anche quote della società. Piuttosto io vedo la possibilità di un sostegno economico indiretto attraverso sponsorizzazioni, per esempio, o attraverso una qualche forma di partnership per realizzare quello che è il vero grande sogno di Massimo Moratti dopo la vittoria del triplete, cioè dare uno stadio all'Inter, uno stadio di proprietà. A mio avviso sarebbe un errore, ma questa è una mia opinione personale, creare uno stadio dell'Inter diverso dal Meazza. Si potrebbe sfruttare meglio il Meazza e in maniera più intensa, però comunque è un progetto a lunga distanza, insomma, non penso che prima del 2017-2018, insomma, questo potrà essere con tempi italiani e politici realizzato. Assolutamente, assolutamente. Chissà quanto vale la squadra che Messi ha convocato per un'esibizione estiva in Colombia, Perù e Stati Uniti. Pensate un po', ci sono anche che Osvaldo, il tuo Amsic, che hanno Marco Belinazzo, che penso rimarrà al Napoli. A proposito, poi parliamo anche di mercato, così qualcuno di voi sarà contento. Siamo in tema di quanto vale e di quattrini. Ebbene, convocato Osvaldo, Amsic e perfino Cassano per questa tournée negli Stati Uniti. Chissà quanto vale questa squadra. Guerrero, Mascherano, Insua, De Michelis, Orion, Alvarez, Aymar, Robinho, Rodriguez, James Rodriguez, Cassano, Osvaldo, appunto, Amsic, Kerkic, eccetera. In panchina Capello e Zico. Non è una balla, sto leggendo le agenzie. Marco, non so quanto valga questa squadra, ma c'è chi chiede, ad esempio Luca su Twitter, cosa c'è di vero tra Samsung e Juventus? Beh, cioè, hai uno stadio nuovo e come in tutto il resto d'Europa lo United si fa sponsorizzare anche per tutti questi soldi, 180 milioni, il centro sportivo, è giusto che, come c'è l'Emirates Stadium, come sono l'Allianz Arena eccetera eccetera, anche lo stadio della Juventus possa essere sponsorizzato in futuro. C'è questa possibilità, non so se poi si tradurrà in qualcosa di concreto con Samsung, però è chiaro che è un affare sul tavolo della dirigenza juventina. Per esempio il Manchester United, contrariamente agli altri club, non vuole sponsor per l'Old Trafford. Io non ci credo tanto, insomma, tra qualche anno, così come Barcellona non voleva sponsor sulla maglia, poi i soldi sono i soldi e servono per mantenere la propria competitività. Sì. Lo Juventus Stadium, immagino che tra qualche anno, se non tra qualche mese, avrà un nome, e da questa sponsorizzazione credo che la Juve possa guadagnare quantomeno una decina di milioni, insomma, tenendoci bassi. Beh, insomma, se lo United ne prende 180 per sponsorizzare il centro sportivo, giustamente dice tenendoci bassi. Ma appunto, però lo United, come dire, ha un bacino d'utenza, milioni di tifosi nel mondo, insomma, ha un appeal che la Juve forse aveva qualche anno fa e che dovrà riconquistare. E che dovrà riconquistare certamente, e che sta in parte riconquistando. Quanto vale il rispetto del contratto dei calciatori, domanda Nico? Niente, vale niente. Vale niente, soprattutto se c'è una clausola rescissoria, come nel caso del Matador Cavani. Sì. Mi dicevi prima, insomma, commentavamo prima come ci sia un'analogia fortissima con il caso Lavezzi, no? Nella gestione di un contratto che ha visto i due giocatori restare un altro anno, ma con l'introduzione di questa clausola, e poi puntualmente partire in estate. Il problema vero, Carlo, è capire chi potrà spendere i soldi per comprare Cavani, perché anche gli Emiri e gli Sceicchi dovranno fare i conti con il problema finanziario. Ecco, il Bayern potrebbe essere una squadra, come dire, papabile per Cavani, anche perché ha un bilancio, come sappiamo, molto florido, e ha anche la possibilità di aumentare moltissimo il monte ingaggi. Sì. Per cui potrebbe essere una sponda interessante. Il calcio tedesco sappiamo che è in grande ascesa. Sì. E non mi dispiacerebbe vedere Cavani in Germania, insomma, in Germania, magari in Kazakistan, in Russia sarebbe anche meglio, ma vederlo lontanissimo. No, ma fa il bravo, sarebbe, no, ma che Kazakistan è Russia? Per i tifosi napoletani penso sia veramente duro vederlo giocare. È un top player, per usare una parola che non abbiamo mai sentito, un'espressione che non abbiamo mai sentito da nessuna parte. 800 24 00 24, numero verde, parlate anche voi. Quanto vale il gol in fuorigioco di Milito contro il Barcellona in Champions? 2 milioni per la partecipazione ai playoff, si può arrivare alla vittoria per un premio di 37,4, questo solo per i premi che raddoppiano con TV e sponsor, mi sembra di aver risposto, no? Antonio da Siena. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, buon pomeriggio. Volevo intervenire sull'Inter, sì, di cui parlavate prima, in particolare su questo progetto di rilancio e sui russi, insomma, che sono apparsi all'orizzonte proprio ieri. Senta, ma quanto vale Stramaccioni? Quanto vale Stramaccioni? In termini di ingaggio? Ma no, che in termini di ingaggio, come allenatore? Come allenatore, beh, senti, io sono favorevole a una linea giovane, comunque a giovani nel calcio in generale, però credo che giovane non sempre vuol dire capace, o quantomeno subito capace. Credo che Stramaccioni abbia delle responsabilità in questa stagione, quantomeno vada rivisto, ecco, questo senz'altro, dandogli, insomma, il beneficio della gioventù, tutto quello che vuoi. Però di sicuro ha delle responsabilità, perché certo, il fatto di essere giovane non lo esime da responsabilità che quest'anno sicuramente ha avuto. Certo, sarà dura rivederlo, secondo me, non a prescindere dalla partita di stasera, perché non credo che dovesse uscire l'Inter, verrebbe esonerato, arriverà a fine stagione, ma sarà dura vederlo l'anno prossimo. Sull'Inter invece cosa voleva chiedere di preciso? Ma volevo soltanto fare un'osservazione che questo paventato ingresso dei russi credo riguardi, ho paura riguardi più che altro la Saras, cioè gli interessi di Moratti, sì, che no, gli interessi veri dell'Inter, parlo da tifoso interista. Sì, certo, l'ho capito, l'ha spiegato in maniera molto precisa Marco Bellinazzo pochi istanti fa, cioè è un'operazione che riguarda la Saras, dei denari potrebbero finire all'Inter, ma il condizionale è obbligatorio in casi come questo, mi pare di aver capito, no? Assolutamente, il problema vero dell'Inter si chiama Champions League o assenza di Champions League. Non sono neanche così convinto che l'Inter abbia tanta voglia di andare in Europa League, ma comunque questi sono altri discorsi magari un po' cinici. Beh, sai, una squadra, l'Inter ha chiuso gli ultimi due bilanci con un rosso di 150 milioni. Il prossimo, non facendo la Champions, sarà tra 40 e 50 milioni, perché si è parlato molto di ringiovanimento della rosa. Però a differenza del Milan, che lunedì presenterà il bilancio, i conti chiusi al 31 dicembre 2012, con un rosso di 6 milioni, quindi con un poca roba. Puoi anche tu, Marco. Io potrei, insomma, ma magari farò altri investimenti, insomma. L'Inter si è trovata con dei contratti molto onerosi e molto rigidi, pensiamo al caso Sneijder e alla gestione, sì, quasi ai limiti dell'ecito che è stata fatta della presenza del calciatore olandese nella squadra nerazzurra, e è stato molto più complicato tagliare gli ingaggi. Ora vedremo la linea giovane, siamo tutti favorevoli alla linea giovane, poi bisogna avere pazienza e non credo che i tifosi italiani abbiano così pazienza, no, a aspettare gli errori dei giovani, che siano essi allenatori o calciatori. No, non è così, non funziona così qui da noi. 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Quanto vale il contratto dei cinesi firmato con l'Inter l'anno scorso? Niente, l'abbiamo già detto, si sono dispersi in via Paolo Sarpi la zona, la Chinatown milanese. Quanto vale il non gol di Muntari? Domanda Alex. Vale, aspetta che te lo dico. Allora, il campionato, il titolo può valere fino a 100 milioni, il titolo italiano, lo scudetto. Quanto vale la tua testa? Te lo dico io, un puntini. Roberto da Belluno, grazie. Massimo, Roma. Buongiorno. Telefonavo a proposito di quello di cui parlavate prima, cioè di Cavani. Sono tifoso del Napoli. Sì. Stavo pensando, è sbagliato pensare che chi compra Cavani dovrà spendere intorno ai 100-120 milioni di euro, incluse le tasse, incluse le percentuali agli agenti, incluso il lordo, considerato che Cavani prende 5 credo all'anno adesso, così mi risulta. Se portandolo al quantomeno a 7 più le tasse, diventa una cifra stratosferica per chi compra. Chi è in grado di poterlo fare? Perché sentivo che il Real Madrid per esempio è pieno di debiti, eccetera eccetera. Ecco, questa era la mia domanda, al preciso Bellinazzo chiedevo questa cosa, lui che sa. Di queste cose qua le faccio rispondere, è una cifra subito enorme. Le faccio rispondere subito. Parliamo di un affare che supera ampiamente i 100 milioni di euro, 63 per la clausola rescissoria, più le tasse, più le provvigioni agli agenti, che hanno munifiche percentuali ormai sul calciomercato. Ed è chiaro poi che Cavani chiede un ingaggio da almeno 7 milioni e mezzo di euro l'anno, il che significa, visto che per esempio in Spagna non c'è più la legge Beckham che garantiva un'aliquota agevolata al 25%, che quei soldi grosso modo raddoppiano. Quindi chi se lo può permettere? Sicuramente, come abbiamo detto, gli emiri, gli sceicchi. Alla Spagna credo di meno, anche se il Real Madrid sembra in pole position. Il Real Madrid non è vero che è pieno di debiti, ha tutta una serie, diciamo, di debiti in particolare con le banche, ma anche un fatturato che supera i 500 milioni in pratica, come di euro molte volte può pagare all'anno. Può assolutamente gestire la situazione, quindi potrebbe comprarlo. Il problema è capire se Florentino Perez ha voglia di spendere questi soldi. Lo farebbe, a mio avviso, soltanto in un caso, e cioè qualora vendesse Cristiano Ronaldo. Sì, beh, in quel caso. E quindi in quel caso avrebbe non soldi, avrebbe problemi. Non avrebbe problemi. E potremmo assistere veramente la prossima estate a fuochi d'artificio. E sarebbe una grande contraddizione, no? Vedere un'Europa che arranca dal punto di vista economico, invece miliardi che girano da un paese all'altro. I protagonisti saranno quelli, li sappiamo: Paris Saint-Germain, City, United, Bayern Monaco. Non ci vuole la sfera di cristallo. Ormai... Marco, invece, sentiamo quanto vale oggi la borsa. Convocati. Allora siamo in tema di quanto vale, quindi c'è Marco Belinazzo del Sole 24 Ore qui con me, è fatale scivolare sul mercato, tra poco lo facciamo. Quanto vale il Pescara dal punto di vista dei diritti TV? Perché poi c'è anche questo discorso che faremo. Circa 25 milioni all'anno. Mica paglia, eh? Beh, direi che basterebbero un paio d'anni insomma in Serie A. Quanto vale la Juventus dal punto di vista dei diritti TV? Beh, siamo sopra i 100 milioni di euro, essendo la squadra con il maggior bacino d'utenza, bacchettato oggi dall'antitrust. Poi magari ne parliamo. 800 24 00 24, la vostra voce vale tantissimo qui in Tutti Convocati. Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Oggi siamo in tema di quanto vale, eh? Lo vedo ovunque. Quanto valeva? Beh, non so, Cavani vale 70, vedi tu, adesso no, dicono. Cavani vale 63. 63? 63, la clausola è di 63 milioni di euro. Poi adesso c'è questo giochino in queste ultime ore di chi dice che potrebbe esserci uno sconto, invece credo le parole del suo procuratore questa mattina abbiano ribadito il contrario, di quanto invece... Il calciatore sia solidale con il club, ma questo l'abbiamo già sperimentato negli scorsi mesi. Io credo che è presto, perché un giocatore del talento di Cavani alla fine stuzzicherà la spesa anche di quei 63 milioni. Andare sopra la clausola mi sembra folle, veramente, appunto, anche perché dobbiamo ricordare ai nostri amici ascoltatori che poi quando guadagna il club, in questo caso ci perde il giocatore. Certo, regala. I soldi che non vanno al Napoli vanno a lui, quindi... Sì, regalare i soldi a De Laurentiis magari neanche gli sceicchi, dar la mancia a De Laurentiis. Però questo è un mercato sempre più radicale, in cui sicuramente i grandi giocatori come Cavani, per loro si fanno anche le pazzie. Sì. Messi non lo può neanche in questo momento, però Cristiano Ronaldo, che è sul mercato... per lui certamente gli sceicchi del Qatar sono disposti a spendere più di 100 milioni. Sono disposti a spendere. E non stiamo parlando così in senso metaforico. No. Sono denari veri. Loro possono spendere quello che vogliono, tutto in vendita. È inutile che me la state a raccontare. Non c'è nulla che non lo sia, compreso Cristiano Ronaldo e molte altre cose. Rooney a 35, scrive qualche ascoltatore. No, piuttosto, visto che ho qui Marco Belinazzo, noto tifoso napoletano. Prima con lui stavo commentando il fatto che al di là di Cavani non mi pare che il Napoli abbia proprio azzeccato le ultime campagne acquisti. Ma a vederlo giocare poi l'altra sera a San Siro si direbbe comunque sì, perché non ha fatto i grandi colpi, perché quelli di Cavani, Hamsik e Lavezzi sono attenzione, Cavani, Hamsik, Cavani, Lavezzi, Hamsik certamente, ma io mi riferivo proprio alle ultime stagioni. È chiaro che il Napoli è una squadra che ha fatto non bene, strabenissimo. Anche perché tiene i conti in ordine. Tiene i conti in ordine e non è un requisito da poco. Poi Marco credo che su questo ci possa di tutto e di più. Sei bilanci inutili consecutivi, insomma, sono un piccolo record, forse solo il Catania, ma con utili certamente inferiori. Hanno raggiunto questo obiettivo e di questi tempi, insomma, va dato atto alla società. D'altro canto, forse Carlo, insomma, prima ci riferivamo a tutta una serie di acquisti di giovani di prospettiva che poi non hanno reso, ma se pensiamo anche che l'ultimo grande colpo è stato Hiller da qualche giornata è triste in panchina, forse insomma qualcosa bisognerà rivedere in prospettiva, soprattutto se arriveranno i 50 milioni di Cavani. Ma io mi accontenterei anche di 50, ma probabilmente sicuramente il presidente non scenderà da 63. Poi ci sono i 30 milioni garantiti dalla partecipazione in Champions, insomma un bel tesoretto. Sì. Mi auguro che la società possa spenderne almeno la metà per costruire, insomma, una squadra che l'anno prossimo possa ambire perlomeno a conquistare, insomma, l'agognato scudetto che manca da troppo tempo, insomma, perlomeno lottare veramente per il titolo, insomma. Ma sai, già ti ripeto, il Napoli ha spremuto, secondo me Mazzarri ha spremuto molto di più di quanto questa squadra in effetti valga sul fronte italiano quest'anno, anche sul fronte europeo l'anno scorso. Quanto vale, scrive Daniele su Twitter, quel brutto gesto del ragazzo da primavera della Juve, Gerbaudo, espulso ieri nella finale proprio contro il Napoli, a Napoli, gestaccio nei confronti dei tifosi, vale un bel castigo fossi la dirigenza juventina, perché l'educazione vale moltissimo e questo ragazzo è stato davvero maleducato, le pessime abitudini si imparano in fretta anche tra i ragazzini. Senti caro Laudisa, facciamo un gran parlare degli sceicchi, ma il Bayern di Guardiola di soldi ne ha? Non meno, nel senso che lì ci sono i mecenati, qui c'è una società che ormai da un decennio, per non guardare troppo indietro, è cresciuta in una maniera esponenziale con profitti certi e quindi è frutto di imprenditorialità. Quindi se vogliamo proprio addirittura esagerare, il Bayern è ancora più ricco. Sì. Perché non vive di un momento o di un investimento, ma coglie i frutti meritati di una politica saggia e accorta, in cui evidentemente Guardiola diventa il testimonial, al di là poi di come finirà la corsa di Heynckes quest'anno, di una legittimazione anche a livello internazionale, perché la Bundesliga ha un grande pregio, quello appunto dei conti a posto e di una potenzialità tecnica interna eccellente, non ha questa visibilità a livello internazionale che evidentemente Guardiola può dare, anche dal punto di vista dell'appeal proprio mediatico, tecnico. È anche mediatico. Oltretutto mediatico, perché sicuramente adesso le sue conferenze stampa a Monaco di Baviera saranno molto più frequentate. Saranno molto gettonate. Un'ultima cosa, Carlo, quanto vale Vidal, che è il giocatore invece sulla breccia, sulla cresta, diciamo, dell'onda in questo momento? Ma Vidal la Juve non lo ammetterà mai, ma se arriva un'offerta superiore ai 30 milioni è già sul mercato. A se quanto? Non ho capito bene. 30. La Juve conta di portare a casa questi denari per sacrificarlo ed evidentemente finanziare poi la caccia al top player. Sì. Peraltro senza dimenticare che in casa ha quel Paul Pogba che è già oro per quello che luccica. Grazie Carlo Laudisa. Grazie a voi, un saluto. Ciao a tutti. Tra l'altro, Carlo, 30 Dimmi. Secondi sulla Juve. Ieri dal bilancio della Exor, che è la cassaforte della famiglia Agnelli, c'era un riferimento appunto ai conti della Juve ed è un riferimento molto positivo per quanto riguarda il popolo bianconero, perché in un anno, sull'anno solare 2012, i conti della Juve, il risultato di gestione, è migliorato di circa 90 milioni. Quindi vuol dire che il prossimo bilancio si chiuderà con una perdita molto inferiore a 50 milioni del bilancio precedente, e quindi ci saranno un po' di risorse in più per fare mercato e per dare la caccia a quel famoso top player. Che tormentone! Il tormentone. Speriamo che lo prendano una santa volta, così dovranno far qualcosa, perché sono avanti in Italia indubbiamente per competere. Sì, secondo me è una squadra che comunque per competere a livello internazionale ha bisogno di un giocatore di alto livello per reparto, perché si parla tanto di attaccanti, però è vero, secondo me è vero, così. Bisogna anche considerare l'età di Pirlo, di Barzagli, di Buffon, eccetera eccetera eccetera, quindi ha bisogno secondo me di un grande innesto per reparto. Questa è una mia opinione. Poi parliamo di Rete TV e anche di quanto vale un giocatore come cantante, ma questo ve lo dico dopo. Alex, provincia di Reggio Emilia. Buongiorno. E io volevo solamente dire che comunque sia nel mondo del calcio, dal mio punto di vista, il valore dei giocatori, insomma, è veramente esagerato, contando di milioni, cioè sono somme esagerati in fondo per coloro che fanno uno sport, ecco, c'è chi fa mestieri molto più difficili, come ci sono pompieri, infermieri, persone che salvano le vite, certo, che comunque Alex, si ritrovano. Però stiamo attenti qui a non cascare nella demagogia. Ad esempio, non mi ricordo più, l'ho letto ieri da qualche parte, quanto vale il contratto di Kobe Bryant l'anno prossimo. Ma cosa tipo? Siamo, guarda, no, non me lo ricordo, quindi non dico stupidaggini. Parliamo comunque di cifre che superano 50 milioni di euro, ma si avvicinano forse più ai 100, insomma, perché per il contratto di un anno bisogna considerare poi sponsor, bonus, insomma. È inutile star lì. Gli sportivi professionisti, i giocatori del al massimo livello sono lavoratori infungibili, e l'abbiamo detto molte volte, quindi tu quanto pensa, vale il cachet di, si parla tanto di un attore, di Brad Pitt, quanto becca a film? Beh, penso almeno un paio di milioni a film. E tra l'altro, se consideriamo uno sport che da noi è poco diffuso come il baseball, il campionato americano di baseball ha un giro d'affari di 8 miliardi di dollari. Purtroppo le cifre sono queste, e il mercato quindi possiamo, quanto vale la nostra invidia? Non ha prezzo. Essere calciatore è il sogno di tutti, insomma. Se dovessi rinascere, vorrei nascere centrocampista. Dovresti fare centrocampista di Serie B, perché mi acconte sono modesto, sì. Ma avere, ecco, 300.000 euro di ingaggio all'anno per giocare a calcio e divertirmi. Tra l'altro, sui giornali di oggi c'è anche scritto di quanto valgono i giocatori che importiamo. Abbiamo importato, orrenda parola, però insomma, sono arrivati in Italia dall'estero. Nell'ultima stagione 263 calciatori, 501 in Inghilterra, 307 in Germania, mentre dalla Spagna stanno scappando tutti. Ebbene, quanto vale il contratto di questi giocatori? Mediamente, di quelli che sono arrivati al campionato italiano, 550.000 euro. Mica poco, ragazzi. Tutti convocati. Allora, 30.525.000 dollari, questo il prezzo di un anno ancora di servigi di Kobe Bryant ai Los Angeles Lakers, che stanotte scopriremo se senza di lui, che si è fatto male, andranno ai playoff, caro Marco Bellinazzi. Questo è solo l'ingaggio, poi le sponsorizzazioni. Tu vuoi rinascere centrocampista di Serie B, io voglio rinascere Kobe Bryant. Guarda un po'. Beh, avresti, o Valentino Rossi, avresti un conto corrente molto più ricco. Tanto cosa costa sparare in alto? Non credo nella reincarnazione. Allora, per noi, senti questo messaggio, Marco: per noi tifosi della Juve il top player è come lo Yeti, se ne parla da anni ma nessuno l'ha ancora visto. Sentite un po' questo giocatore come cantante, poi vi dico chi è, ditemi quanto vale. Vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, non farti guardare. Indovina chi è? Beh, è un brasiliano. È un brasiliano. La cadenza è quella. Canta da cani. Canta non come i brasiliani. No. Solitamente. Gioca nella Lazio, si chiama Hernanes. Bravo, ecco. Hernanes. Quanto vale Hernanes come cantante? Prezzo stracciato, Qui andiamo. A X Factor non lo prenderebbero. No, impressione. 800 24 00 24. Oggi siete un po' pigri, mi dicono, ma non ci credo. Paolo Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Volevo, innanzitutto, grazie per la cura. Grazie a lei. Parlare di basket. Sì. C'è Michael Peterson. No. Venerdì arriva venerdì come sempre. Arriva. Venerdì è il giorno del coach. Ho visto Barcellona Panathinaikos. L'ho vista anch'io, mamma mia. Due cose incredibili. Volevo portare su due cose. Quanto vale Diamantidis? Mi dica lei quanto vale quello che ha fatto ieri Diamantidis nel finale? Un mostro. E però le dico anche questo: quanto vale un giocatore dell'esperienza, della classe di Giachivicius, che a un minuto e 40 dalla fine, più 4, palla in mano, tira dopo 7 secondi dall'azione, 1 contro 5. Giachivicius è sempre stato così, magari 4-5 anni fa la buttava dentro, adesso ma non serviva a buttarla dentro. No, ma lo so. Beh, è un giocatore comunque di questo tipo, lo era quando era giovane, lo è anche adesso. Piuttosto mi domando, il motivo per cui all'età che ha Jasikevičius il Barcellona non possa avere qualcosa possa, di... esatto, possa dare ancora tanti soldi a un giocatore. È un'altra cosa che appunto volevo chiedere ad Ampido, perché è un giocatore che lui sento che stima, e secondo me non può giocare in una squadra che può vincere l'Eurolega. Sala, cioè costantemente gli vengono lasciati 4 metri nel momento in cui prende la palla e lui non guarda neanche il canestro. È anche vero che ieri sera è stato seduto tutta la sera, è stato fatto giocare gli ultimi cruciali minuti e ha passato un paio di tiri che andavano presi. Senta Paolo, Barcellona preferisce tirare con Navarro con 3 uomini addosso, giustamente, piuttosto che con Sada solo, come... No, ma non è questione di il Barcellona preferisce, il discorso è che è un giocatore che passa la serata seduto in panchina, è un po' dura che riesca a prendersi serenamente un tiro all'ultimo minuto sul campo del Panathinaikos in una partita di questa importanza. È semplicemente un dato fisiologico, o è un mostro tipo Diamantidis oppure un'altra storia. Senti Marco Belinazzo, io invece volevo parlare, per chiudere con te, di diritti TV, perché oggi c'è stata una notizia che non ho capito bene, ma l'antitrust i fatti suoi non se li fa mai. Beh, si fa i fatti di tutti. È intervenuta sui criteri di ripartizione dei diritti TV e ha detto che quella quota legata ai bacini d'utenza, ricorderai quanto in Lega si è litigato per queste indagini demoscopiche per capire quanti tifosi ha ciascuna squadra, ebbene hanno litigato tanto, si sono messi d'accordo, arriva l'antitrust, dice che non va più bene quel criterio, ma bisogna valorizzare invece il criterio meritocratico. Ora io non ho capito bene, bisognerà approfondire la notizia, ma a valorizzare il criterio meritocratico significa dare più soldi a chi vince, quindi sempre agli stessi che saranno sempre più forti e sempre più ricchi. Dunque un cane che si morde la coda, non credo sia questa la soluzione per creare più equilibrio come in Premier o in Bundesliga, e ne credo che la soluzione sarebbe arrivare e tornare a diritti alla vendita individuale come in Spagna, altrimenti avremo una situazione di assoluto squilibrio. Il campionato inizia dopo Natale. Praticamente sì, praticamente sì. Tempo che si mettono d'accordo inizia dopo Natale. Quanto vale Novak Djokovic? Visto che sparate alto, allora vorrei rinascere Djokovic. Vi siete dimenticati di quanto pigliano i tennisti? Lo sappiamo bene Lorenzo da Mestre, ma siamo al discorso di prima. Invece la casa di Lance Armstrong è stata valutata 10 milioni di dollari. L'ha venduta e ne ha comprata una che vale la metà, perché anche lui ha i suoi problemi. Vale 4,3 quella nuova, ha i suoi piccoli problemini. Quei 5 milioni gli serviranno per pagare parecchi avvocati, immagino. Ma, credo anch'io. Quanto valgono gli avvocati di Armstrong? Un sacco di soldi. Matteo Milano, poi andiamo a casa, dica Matteo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Matteo, quanto vale l'infortunio di Kobe Bryant per i Los Angeles Lakers? Tantissimo, quanto vuole che valga? Vale la differenza che passa tra l'essere la possibile mina vagante, la possibile, insomma, il possibile pericolo numero uno nonostante la pessima stagione fatta nei playoff, e il non esserlo se questa notte i Lakers si qualificheranno. È chiaro che fa tutta la differenza del mondo l'assenza di Kobe Bryant. Chi vince stasera, Marco Belinazzo, tra Inter e Roma? Io non struscio pallone quando faccio i pronostici, lo sanno benissimo gli ascoltatori, quindi poi lo dico così scommettono il contrario. Beh, guardando al risultato dell'andata, insomma, penso che la Roma abbia un oggettivo vantaggio, anche considerando, insomma, le difficoltà dell'Inter. È vero anche che però l'Inter è l'ultima spiaggia, tra virgolette, questo l'arrivo in finale, insomma, potrebbe effettivamente garantire poi l'accesso all'Europa League e salvare la stagione. Sì, salvarla almeno parzialmente. Almeno parzialmente, insomma. Io dico che vince l'Inter 3-1. Adesso andiamo a casa, no, cominciano a tirare le bombe. Secondo me vince l'Inter 3-1. E domani vi sfido, vi aspetto qui, a tutti i convocati, con questo pronostico che sicuramente sbaglierò di grosso. Tanto ringrazio Marco Belinazzo, che grazie aspetto a te, presto. Carlo, e a presto allora. Porta un po' di soldi, prossima volta che vieni. Va bene. Non venire sempre a mani vuote. Arriverò con le valigette. Abbiamo bisogno. Con le valigette. Marco Belinazzo, Sole 24 Ore, Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti.